minutino di ritardo, 11:32 minuti, 2:15 per questo soleggiato venerdì, ultimo venerdì di settembre, per la prima puntata di Jazz Live. Tutto ciò per un velo di malcelata emozione e ritrovarci nuovamente insieme ai nostri partner per tutto ciò che è una colonna sonora legata al jazz e non solo. Con me Alfredo Pasquali, al quale do il buongiorno. Buongiorno Willy, sai che sono proprio contento che riprenda la trasmissione per due motivi. Prima, perché mi piace la trasmissione, parlare con te di jazz, i nostri ospiti che e poi perché la nostra trasmissione è un indizio certo della ripresa dei concerti. Vedi? Certo concerti, vedi che c'è anche un po' c'è anche una allitterazione futurista, una perché un'alta poetica. Oggi parleremo di Angeli che farà la jazz, ma poi questo ci porterà al Festival Jazz di Bologna, poi questo insomma tutto un percorso che seguiremo poi passino. La trasmissione qui pronta il venerdì. Sì, con già la playlist e tutto. Poi le voci, tra le l'altro. Voci, I nostri amici. La sigla, Alfredo. La sigla. E la sigla di Cyrus Chestnut che ci mancava. E le musiche che mettiamo su. Ah, beh, quello sarà colonna sonora del vostro venerdì che vi accompagna a pranzo e oltretutto vi accompagnerà nel weekend con i principali concerti. Anche se questa puntata è più di presentazione, perché ufficialmente il nostro Jazz Club il Torrione, il Jazz Club Estense, prenderà ufficialmente il via la prossima settimana, ma noi ci siamo e come. Hanno ufficialmente presentato però il programma la settimana in corso e quindi noi ovviamente presenti abbiamo iniziato così a sondare il terreno. Allora, parola d'ordine personale per questo programma: la curiosità, e non solo per il programma, anche per vari appuntamenti di contorno, che contorno non è ma altrettanto protagonista con la stagione 2023, per poi seguire. Adesso iniziamo, come vi ho detto, visto che dobbiamo arrivare fino a maggio con il Torrione, per cui inizieremo pian piano le intersezioni con il Bologna Jazz Festival, anche con il Crossroad Jazz di Ravenna, tutto questo nella fondazione Jazzer che mette insieme le tre realtà principali per la nostra regione in ambito di jazz. Poi per l'arte ci sarà questa esposizione di cui parleremo nelle nicchie del Torrione, certamente ne daremo anche il dovuto spazio, e con Francesco Bettini abbiamo iniziato a parlare di quello che è un programma e non solo che prenderà piede nel prestigioso Torrione. Tu Alfredo hai già dato un'occhiata a qualche nome? Eh sì, ci sono le cose importanti, perché beh, a partire da questo sabato ne parleremo con una formazione di lusso, Talmor con John Ross, Tordini, McPherson, ma più avanti troveremo anche, che so, Greg Osby, per dirne un altro, Bill Carothers, che è un pianista che abbiamo già sentito, che fa a Torrione. Un piano solo. A suo tempo lo sentimmo sulle musiche della Prima Guerra Mondiale, ma lui è un musicista davvero interessante, ed altri, insomma. Poi, tra l'altro, essendo una scadenza importante per il Torrione, sì, da gennaio, nella seconda parte, si preannunciano fuochi d'artificio, ma di questo parleremo. Certo, perché ufficialmente, sì, ufficialmente allora la ricorrenza sarà nella seconda parte di stagione, però già la stagione è un numero tondo, un numero particolare, un quarto di secolo. Allora devi sapere, Alfredo, che quando ho incontrato Francesco, io arrivo sempre prima alle conferenze stampe, prendo subito il pieghevole, perché anche un oggetto, mi permette di dire, nella mia fantasia e non solo, credo, da collezione. Sì, perché ormai tutti... è una tradizione. È vero, è il pieghevole del quel Torrione. Quel format lì è il Torrione. Io li tengo tutti, ad esempio, no? Ecco, allora, beh, pensando che, sai, coi tempi che corrono, ho letto 25. Dico, Francesco, non è che è il costo che adesso bisogna prendere? No, è 25, perché sono 25 anni che però ufficialmente andranno a essere festeggiati nel febbraio del 2024. Però la stagione, essendo già questa, quindi è una 25esima stagione. Ma 25 anni di questa gestione, anche compresa quella precedente? Ah, adesso lo sentiamo da Francesco, che è stato molto preciso in questo. Non è una domanda a caso. Sentiamo le parole di Francesco Bettini, direttore artistico del Jazz Club di Ferrara, che appunto partirà da queste importanti informazioni. E inizia una nuova stagione 2023-2024 al Torrione. Io, con l'oggetto di culto che è il pieghevole del programma, seppur un segmento del programma, leggo 25. Buongiorno Francesco, non è il costo del pieghevole? No, infatti perché 25 con la O, quindi 25esimo anno che tiriamo avanti la baracca, come si suol dire. È ovvio che l'associazione Jazz Club è nata ben prima, ufficialmente mi sembra nel 77, però poi, diciamo, la svolta epocale è stata l'avere questa meravigliosa sede, questo splendido torrione delle mura rinascimentali della città, nonché presenza architettonica protetta dall'UNESCO. E lo aprimmo il 28 febbraio del 99, per cui i 25 anni si compiono a febbraio, ma questa è la stagione del 25esimo dal momento che parte adesso il 6 ottobre e si concluderà a fine aprile, primi di maggio, per cui per questo l'abbiamo intitolata il 25ennale. Come iniziamo? Iniziamo con tre cose piuttosto particolari e anche di un'area espressiva assolutamente non mainstream, per quanto, come dire, a suo modo già storicizzata, insomma. E sono l'inaugurazione, cioè il concerto d'apertura, è un progetto di Lisa Mezzacappa, che nonostante il nome è americanissima, è una delle agitatrici culturali più importanti della Bay Area, dell'area di San Francisco, e che ha un progetto insieme a Piero Bittolobon, che è uno dei nostri consiglieri e il nostro musicista di riferimento della scena, chiamiamola locale, anche se poi locale nel senso che risiede qua. È un sestetto ed riprende un progetto di Lisa, è molto interessante, con anche delle parti visual, dedicato alle cosmicomiche, perché è il centennale di Italo Calvino. Subito dopo una chicca invece per musicologi, che è quella progetto di Matt Talmor, cui mentore era Lee Konitz, per il quale Talmor aveva scritto sia per lui che per Suolo, che per Brecker, per una marea di gente, gli arrangiamenti sia per archi che per larghi organici orchestrali, ma con Konitz aveva una forte affinità. Insomma, quando Konitz è mancato, lui, la moglie di Lee, gli ha chiesto di andare a vedere che cavolo c'era in casa di archivio, e ha trovato questo DAT in cui suonano in una registrazione casalinga, che poi non è mai convolata in studio di registrazione, Konitz, Ornette Coleman, Bill Higgins, Charlie Eden. E sono tutti brani di Ornette mai registrati. E allora questo progetto fondamentalmente cosa fa? Recupera le trascrizioni di O'Had, prese proprio dalle tape originali, e le propone in forma di quartetto, con un bravissimo vibrafonista che abbiamo già aspettato, che è Joel Ross, eccetera eccetera. Adesso vi dico solo queste due, perché terza è che si sgancia il batterista del gruppo che suona il venerdì e fa un workshop con una specie di conduction, ma un suo sistema di gestione di un sample e di improvvisazione istantanea. Si chiama Jordan Glenn ed è il batterista che era già venuto al Torrione insieme a Fred Frith in un paio di occasioni, un gran bel musicista anche lui della zona di San Francisco. E ci sarà anche un altro concerto sempre di area di sperimentazione dalla California, con Steph Richards più avanti. Lei invece è newyorkesissima di adozione, di Brooklyn, ma adesso ha creato si è trasferita a pensione all'Università di San Diego e viene con musicisti di quella zona lì. Questo disco è un all star game di artisti. Al pianoforte state ascoltando Bill Evans, Jimmy Giuffre presente in questa formazione per la ritmica, Roy Haynes alla batteria e prima l'introduzione ai fiati con il contralto di Lee Konitz. La scelta di Lee Konitz verrà poi esplicitata in seguito, anche se Francesco ha già dato alcune indicazioni chiacchierando con Alfredo, con il quale parlare di jazz è sempre comunque illuminante. Il più europeo dei musicisti, l'hai definito così? Sì, oddio, c'è anche Lenny Tristano, insomma quella corrente cool jazz che ha guardato sempre grandissima attenzione alla musica europea, alla sua tradizione. Ma tu parlavi di, parlavamo di concerto di sabato con Talmor. Sì, è una formazione anche questa di All Star, perché abbiamo una ritmica fortissima, solidissima, Rick McPherson alla batteria e Chris Tordini al contrabbasso, musicista solidissimo. Sì, però l'ho sentito, che è messo con Lehman in trio, sì. Davvero una sicurezza. E poi due front line che sono Hoda Talmor al tenore e Joel Ross al vibrafono, di cui già parlava Francesco. Allora, Talmor è in svizzero e suona il pianoforte, sì. Ed è nel giro buono, tant'è che è presentato la stessa Marca Alderich, per dirne un nome. Poi arriva negli anni 80 a New York, incontra il sassofono e il suo maestro, che era Dewey Redman, cioè, capito? Il papà cosina, di Joshua, il babbo di Joshua, ma grande partner di Ornette Coleman, e qui appunto si appassiona. E allora l'incontro con Konitz, non dico che sia inevitabile, ma molto propiziato da questa comune radice di attenzione colta, tra virgolette. E poi io impazzisco dalla rabbia. Cos'è questo disco che non c'ho con Konitz, Coleman? Dove è questo? È inedito. Ma non esiste. Andiamo. Questo Alfredo, non è giusto. Non esiste. Joel Ross, invece, che abbiamo già passato anche al Torrione, è vincitore di premi musica jazz dell'area di Chicago. Ed è un vibrafonista che, come tutti i linguaggi, porta avanti il suo strumento, il vibrafono, unificando quelli precedenti. Il suo maestro era di riferimento Mel Jackson. Sì, al lirismo di Gary Barton, e si aggiunge questo impressionismo di Bobby Hutcherson. Li hai presi tutti e tre? No, beh, come tutti i grandi innovatori, fa una summa e poi la elabora. Cioè. E quindi è davvero un musicista giovane, ma da 23 anni o 24, ma credo 23, è davvero interessante. Chicagoano, lui dice che in questa città non puoi nascere senza avere l'impatto del blues, della musica religiosa afroamericana. Quindi certo, è un gruppo che, suonando le interpretazioni e musiche di Coleman, di Dewey Redman stesso, inedite, penso che sia una bella apertura a Torrione. È una, sai, bella apertura nel main concert, mentre invece nel venerdì, che dà più spazio a una voce altrettanto importante, io preciso sempre, ma non per paggeria, semplicemente perché così è, con altre intersezioni che prevedono anche musicisti italiani, in questo caso Piero Bittolo Bon, che avremo la prossima puntata in diretta telefonica, non solo per istantanea ma anche per una produzione artistica del Jazz Club di Ferrara. Bittolo Bon è vulcanico, eh? È vulcanico, poi adesso ho iniziato anche a parlare. Questa speriamo è una cattiveria, non diventino quasi come le sue idee, altrimenti no, non si tiene questa più. Questa è una cattiveria, infatti, gratuita. No, scusa, Piero. un ottimo solista, poi davvero è creativo. L'ispirazione tra la letteratura, addirittura degli incontri tra musica e filosofia, ma ce ne parlerà Piero, molto interessante fra l'altro, con l'inizio con Elisa Mezzacappa Sextet e le Smicomiche 2023, quindi una rilettura della raccolta di racconti di Italo Calvino, di cui ricorre appunto quella che è la sua centenario, insomma, e sono tutte ricorrenze. Qui ormai siamo tutti in ma in sai perché? Perché tutta una generazione di grandi italiani, Rodari, Lodi, Calvino, nascono tra il 20 e il 25. E quindi è un centenario. Sì, perché è tutta quella generazione che il fascismo va a plasmare a sua immagine e somiglianza con il sabato del fascista, e poi invece è andato sui monti a combatterlo. Certo. Dopodiché ha fatto l'Italia, la grande Italia del dopoguerra. Ce n'è un altro di cui abbiamo parlato oggi, che Testori. Ecco, sì, sì, poi ce ne sono tantissimi questi perfatti. Ed è quella generazione lì, quindi i centenari oggi si sprecano. Ne è parecchi, e a tale proposito le Cosmicomiche 2023 saranno ufficialmente il venerdì 6 ottobre. Invece il venerdì 13 sarà il turno di un duetto con Gunther Baby Summer alla batteria e Fabrizio Puglisi alla direzione, alla produzione di questo incontro per la rassegna Fresh and Bold con il Conservatorio Frescobaldi di Ferrara. Ci teniamo, perché ho fatto questa piccola deviazione, ma avremo modo di darne approfondimento, perché uno dei collaboratori del Jazz Club di Ferrara è appunto la presenza del Conservatorio Frescobaldi. Il Torrione è diventato anche sede per quanto riguarda le lezioni in presenza degli allievi e quindi una succursale, chiamiamola così, mentre per i main concert ho Ad Talmor, Back to the Land, The New Music of Ornette Coleman and Huey Redman. Ma non ci fermiamo qui, ovviamente, abbiamo appena cominciato e con Francesco Bettini avremo modo di entrare nel programma e non solo. Per cui, come dire, questa tre giornate sono un po' la rappresentazione di quello che avviene poi con una cadenza, una certa continuità al Torrione, cioè concerto internazionale di punta settimanale, una produzione legata alla musica, al jazz italiano, chiamiamolo così, cioè musicisti di jazz residenti in Italia, in questo caso con inserti di San Francisco, e le domeniche che sono quelle gestite da Istantanea, questo collettivo di musicisti che gravita in tutti i territori, dalla classica contemporanea, al jazz, all'elettronica, all'indie, per usare tutte queste terrificanti etichette. E in questo caso hanno intercettato Jordan per fare questa operazione, ma sono sempre diciamo, le serate di forte trazione sperimentale. Sia il venerdì che la domenica, quando è configurato così, perché a volte si sovrappongono le main in quelle giornate, e dopo segue la jam session, quindi come momento anche di incontro tra i musicisti che sono sul palco e quelli che frequentano il club, tra i quali ci sono tantissimi allievi o ex allievi anche del Dipartimento Jazz del Conservatorio, perché dal lunedì al giovedì il Torrione è la sede del Dipartimento Jazz, o succursale, chiamiamolo così, con questa delle lezioni del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Ferrara, questo ormai da qualche anno, cosa che come dire, contribuisce a dare quel senso di comunità di musicisti e di appassionati, che è quella che alimenta da 25 anni questo luogo, insomma, e che lo ha reso anche apprezzato e famoso ormai in tutta Europa e non solo, anzi pure in Giappone, perché da quest'anno alcuni dei concerti entreranno attraverso un sistema di regia in diretta con tutti questi ammenicoli elettronici che abbiamo installato al Torrione, verranno mandati in streaming e poi saranno disponibili in questa piccola Netflix dei jazz club del mondo, gestita, si chiama OJazz, che ha sede in Giappone, e in Italia è stato scelto il Torrione come luogo di riferimento per rappresentare la scena jazzistica italiana. Infatti prevalentemente saranno concerti di musicisti del territorio e non di quelli internazionali, così come avviene per tutte le altre club aderenti a questa piccola Netflix dei jazz club, e che sono di ogni dove, cioè ce n'è uno in Australia, uno in Brasile, uno in Giappone, diversi in Europa, ognuno per singolo stato, e per scelta, ma credo anche per una questione di diritti, non ci sono quelli americani, che è un peccato perché diciamo ancora lì c'è il gotha fondamentalmente della scena, ma può essere anche per chi si iscrive a questa piattaforma invece molto interessante vedere in che modo diciamo questo linguaggio che è partito dagli Stati Uniti poi ha conquistato il mondo e le sfumature differenzia da area geografica ad area geografica. sono questi piccoli stop and go ripresi dal protagonista del primo concerto, main concert, che troviamo al Torrione o a Telmore Back to the Land con The New Music of Ornette Coleman and Dewey Redman, di cui abbiamo parlato in precedenza e che torneremo magari nella prossima settimana. Sono tanti spezzoni che sono messi assieme per presentare questa formazione che troveremo così per dare il via alla stagione 2023-2024 al Torrione. Aggiungo anche, oltre che la collaborazione col Fresco Baldi, questa innovazione tecnologica di cui magari ci parlerà meglio la prossima puntata il presidente Federico Danneo al Torrione, tanto più che sono stato preso come modello non tanto per l'estetica quanto per la statura, perché sulla famosa colonna dove mi pongono al posto perché io non dia fastidio alle postazioni dietro di me visto l'eccessiva statura, hanno inserito una serie di microfoni. Allora mi hanno chiesto di sedere per porre i microfoni al di sopra del mio capo in modo che io non dia fastidio alla registrazione e viceversa. Non far dei rumori però, no, no, non, beh, non fare i miei versetti, zitto come un pesce. Devo comportarmi anche in maniera più educata del solito nonostante l'entusiasmo per il Torrione. Quindi in questo segmento di intervista il nuova piattaforma di diffusione jazzistica, prendendo una serie di jazz club in tutto il mondo, giustamente ha scelto il Torrione per portare poi in visione diffusa a livello mondiale tutta la parte del programma o concerti selezionati dal Jazz Club di Ferrara. Quindi onore al merito anche per questo percorso. La mostra, due parole, no, non c'è tanto da soffermarsi per quanto riguarda questa mia risatina ironica, anzi, nipote d'arte, Santimone, già il cognome, illustratrice, porterà nelle nicchie del Torrione un corredo legato alle immagini tra un disagio che è una sorta di emicrania che costantemente colpisce l'artista appena citata e il suo amore per la musica. Lui dice: caspita, io amo la musica tantissimo, però ho questa emicrania costante, allora voglio rimediare e voglio portare delle immagini in relazione a questo. Ecco, la mostra che sarà poi nella prima serata del Torrione avrà questa linea e filo di conduzione e di ispirazione artistica, immagini legate a questo disagio, ma allo stesso tempo, come con la musica, magari si può dare una continuità grazie all'immagine e a goderne allo stesso modo. Beh, insomma, il Torrione procede con diverse intersezioni, come ho già detto, con il Bologna Jazz Festival e quant'altro. Ricordo che con il Bologna Jazz Festival ci sarà il concerto con Joy Calderazzo Quartet, dove l'ospite sarà un artista da noi apprezzato, che è Miguel Zenon, ma di questo poi ne seguiremo, diamo a spot insomma qualche notizia qua e là. Aggiungo un altro aspetto, questo è un altro commento personale: hai sentito, Alfredo, c'è molta West Coast? Questo è insomma, certo, beh, è una cosa bella. In realtà si apre con l'Uptown di New York. No, certo. Però la West Coast non manca, infatti. La West Coast non manca. Ed è interessante perché solitamente, siccome New York è il centro del mondo, la West Coast magari rimane un po' a parte, tranne i musicisti che transitano per New York, gli altri magari conosciamo di meno, invece sono musicisti interessantissimi. Dico uno per tutti, tutta la genia che discende da Vinnie Golia. Ah, sì. È per quello anche che aggiungo che secondo me da Rosenborg, il trombettista, e da altri insomma. In questo caso da spettatore è curiosità secondo me la parola d'ordine di questo programma, perché nell'aspetto dei main concert è inutile negarlo, cioè c'è una presenza sia della Bay Area che anche del Sud California, che insomma sono nomi ai quali ci approcciamo con grande curiosità. La curiosità poi sarà anche poi materia della seconda parte, quando parliamo di Angelica la curiosità è estrema. Però prima di parlare, permettimi una parentesi, perché sempre in questa stagione che riapre le frontiere del jazz abbiamo Parma Frontiere, cioè, che tra l'altro sono musicisti che compaiono in questa 28esima edizione, perché questa non è giovanissima, anche la sua età è come il Torrione. Sono musicisti che sono un po' fuori dai nostri radar soliti, perché loro vanno su un altro versante che si interseca anche con, appunto, con una composizione europea di grandi orchestre. e quindi non andate sabato che apro, perché il Jazz on Parma Orchestra è sold out, quindi andatela per niente se avete già il biglietto. Però sono musicisti, Tommy Smith, Hildy Meyer, insomma, che Ui. Da conoscere. Io poi sono interessatissimo a Cartoons del 28 ottobre. Per ovvi motivi. Di fumetti, perché noi a Bologna, come radio, come CRAP, organizziamo sabato prossimo questo il Bavaglia Paperino, tutta di ragionamenti sulla censura visibile e invisibile, nostrana internazionale, quindi penso sarà interessante, e ne sono convinto, visto anche gli oratori di notevole qualità. Ma lì a Parma il 28 fanno al Teatro Regio, questi Sabina Borelli più dei musicisti a seguire, fanno comics. E questa interazione delle immagini e della musica, tra l'altro la rassegna si chiama Movimenti in piano sequenza, ecco. Che è esattamente la definizione del fumetto. È la definizione del fumetto, sì, e quindi è azzeccata anche siamo, con i lavori siamo. Del CRAP. In conclusione, prima dello stacco, per quanto riguarda questa prima parte di Jazz Live, prima puntata stagione 2023-2024 con Francesco Bettini del Jazz Club Il Torrione, sentiamo appunto di queste presenze dalla West Coast. Collaborazioni come ogni anno. Beh, noi siamo entrati nella Fondazione Jetzer, che è una collaborazione in sé, una fondazione che accorpa il Jazz Club di Ferrara, Cross Jazz Alto in Emilia Romagna e anche il Bologna Jazz Festival. Che cosa significa? Che ci siamo messi insieme per far crescere un progetto comune di condivisione di palinsesti e di ampliamento delle proposte. È neonato, per cui deve fare, insomma, prendere il giusto rodaggio. È già un anno comunque che ci stiamo lavorando e abbiamo già fatto delle iniziative specifiche per quella che era prima un'associazione e adesso è una fondazione. Prevalentemente in questa prima fase dell'anno, per quello che concerne il Jazz Club, la collaborazione e le coproduzioni sono quelle con il Bologna Jazz Festival. Nella seconda parte della stagione invece si va a incrociare con il palinsesto di Cross Jazz Alto in Emilia Romagna, perché l'uno prende vita nel mese di novembre, l'altro invece da marzo a giugno-luglio, insomma, tendenzialmente. E poi vabbè, c'è un festival nel festival, una rassegna nella rassegna, anzi scusatemi, che è quello del Fresh and Bold, fatto dal... è organizzato dal Dipartimento Jazz del Conservatorio con i progetti dei docenti, di alcuni allievi e dei workshop che fanno poi da ponte alle attività congiunte di docenti esterni e degli allievi stessi. E questo abbraccerà tutti i venerdì di ottobre, ad eccezione del primo inaugurale, che è quello che vi dicevo dedicato alle Cosmic Comic. E che altro? Non mi viene in mente null'altro, anche se saranno 12.000 di altre. No, te le aggiungo io come osservazione sui main concert. Sì. Più West Coast, allora? Ma solo due, dai, di fatto. Ah, ok. Sì, sì, adesso. Cioè, poi dipende, sta un po' cambiando il discorso degli Stati Uniti, cioè vivere a New York è diventato impossibile, in termini economici. E quindi tantissimi musicisti si stanno spostando, o in Europa. O in West Coast, dove non è che è un costo in casa, però insomma, diciamo è affrontabile un'esistenza pur dedicata esclusivamente al lavoro, come lo è per tutti loro. Per cui si è un po' sfilacciato, diciamo, quel centro di gravità. Più eterogeneo, dai. Ecco, diciamo che il centro di gravità non è più permanente, ma si sposta mano a mano sempre di più e si creano sempre più collettivi e situazioni, diciamo, creative in altri poli geografici. E quindi, sì, in questo caso c'è un po' di Bay Area, ma anche un po' di sud della California. Ma la scena newyorkese rimane centralissima, e così come tantissimo jazz italiano e europeo e i progetti che affondano le loro radici più profonde nel territorio, perché non dimentichiamoci che il Torrione è riuscito a diventare il polo di una comunità di musicisti che si sono mossi all'interno di questo spazio proprio in ragione dell'attività del Jazz Club. La Tower? La Tower farà un concerto, la Tower è a caccia disperata di risorse, adesso nel 2024 si aprono diversi bandi a sostegno delle residenze artistiche che sicuramente andremo ad intercettare, ma è come dire, un'orchestra di 23 elementi ha la necessità, di avere una quota di cofinanziamento, quindi... E questo, insomma. Bene, io ti ringrazio tantissimo. Buon 25esimo. Grazie, William, grazie a tutti e ci vediamo al torneo. Miguel Zenon, da questo suo lavoro che ha presentato al Torrione un paio di anni fa, sarà venerdì 10 novembre per quanto riguarda l'incontro al Torrione, questa volta con Joy Calderazzo, in quanto anche lui pianista importante, compositore che ha delle attinenze con questi suoni, fra l'altro lui già collaboratore con Patitucci, insomma è ben disponibile a questi motivi di incontro. Miguel Zenon sarà venerdì 10 novembre alle 21.15 al Torrione e sarà in intersezione con il Bologna Jazz Festival, di cui chiaramente vi parleremo. Bill Carothers sarà sabato 4 novembre con un solo, ci saranno anche i Bad Plus con la formazione. Con la nuova formazione, sì. E li hai già sentiti con la nuova, sì, formazione? Sì, con l'aggiunta anche del sassofonista, credo che, perché vabbè, la perdita di Iverson è stata importante nella, e quindi per quanto Ben Mordor sia brava la chitarra, però... inizialmente non è l'anima, certo. Devo dire che con Speed al tenore, al clarinetto, ha ripreso diversissimi dai vecchi, sì. Quindi uno non si aspetti quel minimalismo che entrava nel pop, nel rock, nel classico, no, e poi Speed lo rivolgeva come integralista, comunque Speed è questo integralista è un termine spregiativo, no vabbè, integralista nel senso, in effetti io non sono un amante di Chris è un suono introverso, sembra quasi un nobile suo sax, è vero, a me sono messo una moto sistematore di Speed, ma ognuno ha i suoi gusti, per carità, certo. Ma insomma ha dato un'impronta, una personalità che per me ha rilanciato il gruppo, che effettivamente, per quanto i Bad Plus è un gruppo eccezionale, magari con l'aggiunta anche di Joshua Redman eccetera, però erano datati dopo 20 anni, inevitabilmente si ripeteva, allora sai, e così invece hanno cercato nuove strade, e sai come si dice, quando si chiude la porta si ha eccetera eccetera, oppure chi lascia la vecchia strada potrebbe andare avanti inoltre, c'è la pecorella più giocatinelle, non lo so. Se non ci sono più le mezze stagioni, collaborato anche con Mark Turner, sì, con Joshua Redman, importante, perché ci stava bene, perché questi musicisti un po' introversi, perché anche Iverson non è certo è chiuso nel suo pianismo, nel senso, certo, buono, cioè, certo. È sintagmatico, come si dice, wow. Lavora sulla sintassi della musica. Quindi la prossima puntata col presidente Federico Danneo del Torrione, carico di entusiasmo, parleremo di quelle che sono anche le innovazioni tecniche legate a questa diffusione della stagione 23-24, e avremo anche con Piero Bittolo Bon sia l'incontro con Istantanea e allo stesso tempo con i Venerdì del Torrione. Momentaneamente abbiamo dato linee generali e tra pochissimo si rientra in diretta con l'arrivo di Angelica sui 103.1, queste musiche particolari, abbinabili se vogliamo alla neonata rubrica Altri Suoni. A tra poco!